Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Le sentite? Facciamole sentire ancora in sottofondo. Queste sono le volpi. È il verso delle volpi che stanno prendendo d'assalto la città di Roma. Sì, perché a Roma stanno arrivando le volpi, probabilmente in tante altre città d'Italia. Le gattare romane si stanno riorganizzando, diventeranno volpare. Le vedrete in giro per le antiche rovine della città con il cartoccetto in mano, con i maccheroni del giorno prima, e daranno da mangiare alle volpi. Le volpi che sono state spodestate dal collo delle signore, perché nessuno più metterebbe un collo di volpe, una pelliccia di volpe, sarebbe preso a sassate per strada, riappaiono vive, non più imbalsamate, per le strade cittadine. Stanno segnalando ovunque volpi. Entrano nei garage, entrano nei condomini, vanno a scartabellare i rifiuti della città che ormai sono belli apparecchiati alla base dei cassonetti. Avevo già notato delle volpi quando andavo in qualche paesino dell'Abruzzo, mi sembrava strano che arrivassero fino ai centri abitati. Le vedevi la sera come fossero dei gatti, a lontano pensavi qualcosa di mezzo tra il gatto e il cane, e poi vedevi le code e capivi che erano volpi, e stavano lì tranquille, nemmeno si spaventavano. Aprivano i sacchetti della spazzatura, si infilavano nei residui del cibo dei turisti abruzzesi, e in realtà oggi lo fanno a Roma. Oggi per Ponte Milvio, per Roma Nord, per i posti della Movida romana vediamo scorazzare volpi, ma già ci stupimmo qualche tempo fa, e ne parlammo a questa trasmissione, quando vediamo i gabbiani, improvvisamente i gabbiani, i re del mare che stanno tranquilli per le strade romane. Accadde ieri al professor Chiappini, uno degli illustri collaboratori e fattori e mettitori in onda di questa trasmissione, vide piovere un piccione. Davanti a lui cascò un piccione spappolato ai suoi piedi. Dice: come mai piovono piccioni? Cosa succede? Alzò gli occhi e c'era un gabbiano che stava mangiandosi il piccione, gli era sfuggito un attimo dal becco. Vedere un gabbiano che si disossa un piccioncino sul tetto di un'automobile a Roma ormai è uno spettacolo consueto. Voi cosa ne dite? Avete avvistato anche voi strani animali nelle vostre città? Ci sono animali che normalmente non circolano per le città. Nelle città cosa circolano? Uccellini, cagnolini e gattini. Questo almeno eravamo abituati a pensare. Da un po' di tempo circola di tutto. A Roma si vedono pappagalli verdi del Brasile, si vedono puzzole, martore, cinghiali per le città italiane. Ecco, segnalateci l'immigrazione degli animali selvatici nelle nostre città. Stiamo inselvatichendoci, sembra quasi uno scenario post-atomico, in quei film in cui si vede che dopo l'annientamento atomico dell'umanità rimangono pochi sopravvissuti in delle città, di Chicago, una rovina, con animali selvatici che girano per le città. Quindi siamo già nella fase post-atomica. Quali animali selvatici avete individuato nelle vostre città? Avete registrato anche voi il canto delle volpi? In Giappone le kitsune sono degli spiriti che circolano di notte, si vedono ogni tanto dopo le giornate di pioggia, e si dice ai bambini: attenzione, se vedi la processione delle volpi non la seguire, nessuno mai è tornato vivo nel seguire le volpi. Succederà anche a Roma qualcosa di simile? 800240024. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Zara 1? Sì, guarda, per Italo Panattoni. Allora, c'era un branco di cinghiali che sicuramente è sceso da sopra il parco. Ora andiamo a fare un giro dall'altra parte della Cassia, perché qua le persone ci hanno riferito che hanno sentito effettivamente dei spari, quindi non è da escludere magari qualche bracconiere o qualcosa del genere. No, guarda che sta facendo. Vedi, che spettacolo. Che stavo dicendo? Guardala sulla destra, quanti ce ne stanno piccoletti? Ah, sì. Però sono vivi, cioè, probabilmente qualcuno... Bisogna vedere se ce ne sta qualcuno morto. Qualcuno gli ha sparato, eh? Bracconieri lungo la via Cassia a Roma, via Cassia, strada residenziale dove tutta la Roma benestante degli anni 70-80 aveva fatto i suoi bei palazzetti con le terrazze, con i giardini, con il barbecue, con gli spazi comuni, qualcuno anche con la piscina. vanno cinghiali, ma non tanto ci sono i cinghiali lungo la via Casse, ci sono anche i bracconieri, attirati dai cinghiali arrivano i bracconieri. Immaginate la volante, la polizia che vede passare i cinghiali per la via Casse, dove normalmente si vedono signori col barboncino o signori con il cane lupo, si vedono i cinghiali, ma in più si vedono anche i bracconieri. 800240024, mi arriva un sms da Genova: noi abbiamo cinghialoni enormi nel letto del fiume che attraversa la città di Genova. A Genova vengono passare i cinghiali, i genovesi abituati, non so, al pesto, alla focaccia, vengono passare i cinghiali. Cioè, ma dove siamo? In Toscana. Ma siamo a Genova, in Toscana. Una cosa bellissima, fantastica. Mentre l'Italia è sconvolta emotivamente dal passaggio dei flussi migratori, mentre nel Salento nascono bambini neri a coppie bianche, quindi sta avvenendo il massimo dell'integrazione, gli italiani stanno rendendo conto che i flussi migratori appartengono anche al genere animale, al quale poi anche noi stessi apparteniamo. Antonio Canu, buongiorno. Buongiorno a voi. Antonio Canu è responsabile OSI WWF, autore del libro Roma Selvatica, editori La Terza, un libro profetico che annuncia quello che sta già accadendo e che oggi leggiamo nelle cronache. Quali sono, diciamo, i flussi migratori di animali strani che cominciano a circolare nelle città italiane e perché arrivano? Allora, il fenomeno è molto più vasto di quello che chiaramente anche il mio libro racconta, perché riguarda non solo Roma, riguarda quasi tutte le grandi città in Italia, ma anche in Europa, nel mondo. Roma, a differenza delle altre, o comunque a supporto di una situazione particolare, è quella città in Europa che ha maggiore biodiversità selvatica. Quindi, al di là degli animali cosiddetti strani, come li possiamo definire, in realtà c'è una presenza selvatica anche favorita dal territorio di Roma, che è in gran parte, al di là dell'area urbana, in gran parte campagna, in gran parte... Le posso dire una cosa, Canu? Nei 10 secondi che stavo a ascoltare lei, sono arrivati già 3 sms. A Livorno gabbiani fanno da padrone. Poi sulla collina di Torino, 10 minuti dal centro, pieno di cinghiali che passeggiano tranquilli. Genova, cinghiali a frotte, gazze, ghiandaie, pappagallini verdi, gialli, gabbiani tantissime, donnole, tassi. Fantastico. Allora, per fare una battuta, possiamo dire che la natura si sta riprendendo parte di quello che gli abbiamo sottratto in tanti anni, ma diciamo che è una battuta. In realtà il fenomeno riguarda questa particolare tendenza di alcune specie, ma non tutte specie, tutti gli animali elencati fino adesso sono tutte specie che hanno capacità di adattamento particolare anche in area urbana, quindi non riguarda specie... Cioè, hanno capito che gli conviene stare in città, sta meglio, faticano meno e mangiano meglio. Allora, in città che cosa avviene? Intanto trovano spazi dove poter riprodursi e, diciamo, insediarsi tranquillamente. In più, giustamente, come ha detto, c'è più cibo, si trova, questo per colpa nostra, evidentemente, e in più c'è anche la temperatura che in qualche modo favorisce, fa più caldo, quindi per loro c'è una situazione climatica anche più favorevole. Quindi diciamo che è un flusso che avviene un po' per caso, ma anche un po' perché comunque gli animali si spostano dalla campagna, molte volte cacciati, e trovano negli ambienti urbani, e questo è il paradosso, quelle condizioni ecologiche che non trovano da altre parti o che comunque sono simili ad altre parti. Quindi vengono in città perché stanno bene, la realtà è questa. Poi è chiaro, ci sono specie, abbiamo citato il cinghiale, ma il problema del cinghiale l'abbiamo creato noi. Ma dove dormono i cinghiali la notte a Genova e a Torino? Mi viene questa domanda stupida, mi scusi. O le volpi, dove dormono a Roma quando non vanno a mangiare la spazzatura? Beh, le volpi, io da casa mia seguo un gruppo di volpi da anni, tranquillamente vive lì. Che area di Roma? Io abito sul, diciamo, Roma Nord Salaria, quindi un po' in periferia, ma insomma lì io da anni seguo le volpi, le trovo in città tranquillamente la sera che passeggiano. Quindi è normale che le vedano a Ponte Milvio, perché dalla Salaria poi vengono verso il centro, camminano. Possono camminare. C'è una pista ciclabile che arriva da lì praticamente, vanno lungo la ciclabile. Il Tevere è un corridoio biologico, si muovono anche lungo gli Aggi, non è... Diciamo che poi chiaramente approfittano di quelle che sono le condizioni ecologiche che una specie sta ricercando. Però i cinghiali, torno ai cinghiali perché è diventato un fenomeno, al di là del loro arrivo in città o in periferia, ma anche un fenomeno che riguarda tutti gli ambienti di campagna, anche naturali d'Italia. Beh, il caso cinghiale è un caso creato dall'uomo, cioè se noi non avessimo reintrodotto per la caccia degli animali che vengono da altre regioni del mondo, dall'est, in questo caso dall'est Europa, quindi abbiamo tolto la nostra specie, l'abbiamo sostituita con altri esemplari che si riproducono molto velocemente, è chiaro che oggi siamo di fronte a un'emergenza cinghiali, ma non è colpa del cinghiale, siamo noi che abbiamo fatto un errore, uno dei tanti. Erano cinghiali più tosti che non dovevano stare dalle nostre parti. Ecco. I cinghiali nostri erano molto più piccoli, erano molto più diffidenti sicuramente dell'uomo, e poi comunque vivevano in una situazione dove potevano essere controllati da chi in Italia preda i cinghiali. Mi stanno arrivando segnalazioni di pappagalli verdi brasiliani, è vero? Villa Celimontana è pieno, sembra di stare in Madagascar. A Roma ce ne sono due specie di pappagalli che sono ormai numerosissimi, sono il parrocchietto dal collare e l'altro è il pappagallo monaco. Sono due specie che erano, diciamo, tenute in cattività, quindi dentro le gabbie, da parte di alcuni cultori, o chiamiamoli amanti degli animali, che poi a un certo punto decidono o di aprire le gabbie perché si sono stancati, o per errore o per altro, questi animali sono scappati. Ma anche perché è uscita una legge, un periodo che ci furono delle leggi che punivano la detenzione di animali non permessi, quindi avranno avuto anche paura. No, questi si potevano acquistare, stiamo parlando anche perché il fenomeno si vede molto oggi, ma proviene anche dal passato, dagli anni 70 per una specie, dagli anni 70 per una specie, dagli anni 90 per l'altra. Comunque oggi, perché un tempo se ne vedevano meno perché c'era anche un clima che in qualche modo non gli permetteva di passare l'inverno a questi animali. Oggi il clima, che è molto più caldo rispetto che al passato, gli permette di superare anche il freddo dell'inverno, e quindi ormai ce li troviamo come una specie molto, molto diffusa. Ci arriva una testimonianza da Felice. Scusi un attimo. Felice, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Cosa ha avvistato, Felice? Devo dire che nella zona di Parma, nella quale risiedo, sono molto frequenti gli insediamenti dei caprioli. Questi si sono accresciuti anche trovando un clima favorevole nelle aree suburbane, anche perché non più aggrediti, riescono anche a convivere bene con il contesto territoriale del posto. Però in realtà negli ultimi tempi sono stati segnalati, ne ho visto anche uno direttamente, dei lupi. I lupi nel parmigiano? Sì, e non sono assolutamente una novità, perché spesso si muovono lungo le aste torrentizie, evidentemente o per fame o per coesistenza con zone ormai urbanizzate dappertutto, sembra che non abbiano né paura e né grandi imbarazzi nell'avvicinarsi a ridosso delle zone. Beh, il lupo non conviene dargli la carezza, a meno che non si sia San Francesco, meglio di no. Proprio di no, è molto pericoloso, ma è spesso anche non da solo, quindi un branco di lupi, branchi di lupi affamati nel parmigiano. Allora, Antonio Cano, i lupi pure, sì. Scendono anche i lupi verso le città. Ma i lupi in città ancora non sono arrivati, questo probabilmente nelle zone periferiche di campagna questo può avvenire, anche vicino Roma sono stati segnalati alcuni lupi, però ora saranno attirati dalla lupa probabilmente. Probabilmente Roma ha il suo motivo per attirare i lupi, però delle altre parti ancora oggi mi sembra abbastanza difficile che possano arrivare in città, proprio perché il lupo comunque è un animale che vive, che non ha la capacità poi di entrare, o comunque ha maggiori difficoltà. Qui stiamo parlando di animali che con noi convivono, noi lo scopriamo oggi il fenomeno, ma insomma sono anni che abbiamo gabbiani in città. Ecco, per esempio, i gabbiani ormai è una realtà romana. Se uno non fosse venuto a Roma negli ultimi 20 anni, oggi troverebbe tutto cambiato, vedeva solo piccioni, oggi vede anche i gabbiani. Oggi abbiamo gabbiani, che sono sicuramente la specie che sta aumentando più delle altre, le cornacchie sicuramente. Negli anni 70 a Roma non c'era nemmeno una cornacchia. È vero, adesso è pieno di cornacchie. Adesso è pieno di cornacchie, così come sono pieni anche di altri animali che ci sfuggono, anche di nutrie. Siamo pieni a Roma, siamo pieni di razzi, siamo pieni di tante specie, che gli stormi, chi è che non ha mai ammirato i voli che fanno a sera al rientro? Sì, anche ammirato quando ti arrivano sulla testa, però, perché esattamente poi li ammiriamo meno quando poi invece si riuniscono e fanno quello che fanno. Però detto questo, il fenomeno è molto interessante. Quello che dobbiamo stare attenti adesso è non in qualche modo vedere queste specie come una minaccia, perché non lo sono assolutamente. Stanno cercando di si adattano a una situazione che gli permette appunto di avere da mangiare, per luoghi per ripararsi, anche nidificare o comunque riprodurre. Allora, diamo qualche regola, però, perché veramente io ho fatto la battuta delle volpare al posto delle gattare. La volpe non è un animale a dargli le carezze, e molti temono anche che queste volpi si mangino i gatti, perché che si mangiano i topi l'abbiamo capito, ma si potrebbero mangiare anche i gatti. Sì, ma allora che si fa? Si fa una caccia alla volpe e con allora, cavalli, ecco. Vediamo anche però i numeri. Allora, stiamo parlando sicuramente di un fenomeno che è in crescita, quant'è che va gestito, ovviamente, non discuto che va gestito in qualche modo. Però stiamo parlando, io non ho sentito almeno fino ad oggi nessun fatto di cronaca che parla di una volpe che ha azzannato un gatto, ha azzannato peggio una persona e quant'altro. Non mi sembra che ci siano questi danni da animali selvatici. Dobbiamo stare attenti a poi a non fare, insomma, un allarme che allarme. La volpe scappa, se vede l'umano cerca di scappare. Io mi sono anche abbastanza avvicinato davanti a un cassonetto. Devi arrivargli vicino, ma poi scappa, non è che sta lì a guardarti. Certo che scappa, anche perché gli animali scappano dall'uomo e ne hanno buon motivo di scappare, insomma, perché ripeto, il fatto che si stiano attrezzando per venire in città o comunque hanno trovato, è perché comunque fuori non stanno così bene. Ma mangiare per loro è come stare a un ristorante, perché quello che trovano nei cassonetti se lo sognano nei boschi. Infatti quando uno parla di ratti, Roma è piena di ratti, Roma è piena di gabbiani, ragazzi, ma se noi lasciamo, e invece di gettare i rifiuti negli appositi contenitori, li lasciamo sotto o li disperdiamo, o comunque abbiamo questa insana abitudine di lasciare per terra qualsiasi cosa, anche da mangiare, è chiaro che questo per loro è il ristorante. Cioè una volpe se lo sogna, per prendersi un passerotto fatica come un animale, giustamente, nella sua foresta. È un ristorante diffuso su cui poi paghiamo le conseguenze. Iniziamo a essere noi educati, iniziamo a evitare di lasciare il cibo per strada. Diventeranno grossissime queste volpi, mangeranno benissimo, tutto sommato per loro è meglio. Non solo le volpi, ma anche i ratti mangiano benissimo, è chiaro che aumentano. Il ratto, tra l'altro, convive con l'uomo da sempre, gli abbiamo sempre dato da mangiare indirettamente, ma è chiaro che rimane, sarebbe per lui è un'evoluzione del suo comportamento, ha trovato come campare senza fare grandi sforzi, insomma. Quindi dobbiamo stare attenti noi a come comportarsi, però starei molto attento, perché poi vediamo anche il lato positivo di una città che ha tantissimi problemi, parlo di Roma, possiamo parlare anche di altre città, è comunque viva, è comunque piena di animali, è piena di piante, e questo comunque deve farci tanto pensare che se noi lasciamo in pace la natura, questa con noi convive benissimo, o comunque noi conviviamo bene con lei. Quindi poi è chiaro, possono esserci degli episodi particolari, il cinghiale che può in qualche modo avvicinarsi troppo, creare qualche problema anche sulle strade e quant'altro, ma io ripeto, fatti di cronaca di questo genere io non ne vedo così tanti, anzi non ne vedo per nessuno. Quindi diciamo il suggerimento, tenete le città un po' più pulite, verranno meno volpi se non ci sono rifiuti. Allora, noi dobbiamo stare attenti a come gestire la città, a renderla, tenerla pulita assolutamente, perché questo richiama gli animali. Gestire emergenze particolari, quella degli storni che comunque creano qualche problema quando tornano la notte nei dormitori, ma a quel punto si possono utilizzare anche delle forme per allontanarli, ovviamente innocue. Questo sicuramente evitare, insomma, di dare la possibilità a questi animali, soprattutto a quelli più forti, quelli che si sono adattati meglio, quindi il gabbiano, la cornacchia, lo storno, il ratto e quant'altro, di poter aumentare ancora, perché poi comunque in qualche modo si autoregolamentano questi animali. Questo è il primo aspetto. Il secondo è culturale, dobbiamo vedere il fenomeno anche dal punto di vista diciamo non solo scientifico, ma insomma io direi anche in qualche modo sociale, cioè comunque noi dobbiamo riprenderci un rapporto con la natura. Se poi avviene in città, secondo me è un passaggio importante per poi ritrovarci chiaramente fuori dalle città e rispettare quello che in qualche modo nel tempo abbiamo sacrificato in mille modi. Allora, Antonio Cato, devo interrompere perché mi stanno chiedendo la linea per le informazioni della borsa. Ci sono tantissime telefonate, stanno arrivando segnalazioni a Bizzeff da tutta Italia. Cercheremo adesso nelle parti successive della trasmissione di dare comunque uno spaccato, se possibile una mappa, di quelli che sono gli avvistamenti di animali strani, fra virgolette, perché poi di strano hanno nulla, semplicemente si spostano dai loro habitat nelle nostre città italiane, e ne avrete di cose divertenti. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Cervi, lupi, orsi e cinghiali a spasso per le vie di città e paesi d'Abruzzo. Montesilvano non è l'unico caso di animali selvatici sempre più spesso nei centri abitati. E purtroppo è finita male la storia del giovane cervo notato negli ultimi giorni tra Pescara e Montesilvano. L'esemplare di circa Un anno, maschio, è stato investito ieri sera da un'automobile lungo via De Gasperi. L'automobilista si è trovato il cervo di fronte, in piena curva, e non ha potuto far nulla per evitare l'impatto. Il conducente della vettura è rimasto illeso. Questa è la stagione dell'amore per i cervi e probabilmente l'esemplare emarginato dal... È vittima dell'amore, povero cervo. Già il cervo ha i suoi problemi e si leggono palesi nei suoi appendici frontali. E già, poveretto, quando va nelle transumanze amorose, le sue corna non servono a salvarlo da un'auto che lo travolge. Bisognerebbe mettere una vernice fosforescente alle corna dei cervi, mettere ai cervi quei giubbottini da Umarell, gialli, verdi, fosforescenti, perché non incappino nelle automobili. Stiamo in questo momento avendo segnalazioni da tutta Italia di animali selvacci, strani, inusuali, che circolano per le città italiane. Dateci la vostra segnalazione 800 24 0024. Nicola ha visto una cosa quasi miracolosa. Cosa ha visto, Nicola? Guardi, io sto in un paese, Galluccio, in provincia di Caserta, e in un agriturismo dove vado spesso, ho visto una gattina che allattava un lupo, un volpino. Cioè, una gatta che allattava un volpino, una volpe. Insieme, sì. Ma è sicura, sì, che non era un gatto con la coda un po' grossa? No, no, no, guardi, beh, l'hanno visto tutti, lì è un volpino, tant'è vero che ha fatto anche delle lesioni ai capezzoli, l'hanno portata al veterinario, la gattina, per farla curare. E questo volpino, mai sentita? Questo volpino adesso, dopo svezzato, è ancora in giro di lì, la sera si va a vedere, gira intorno all'agriturismo, è stato quasi adottato, è una cosa veramente miracolosa. E va a trovare la sua mamma adottiva, probabilmente, a trovare la gatta. Probabilmente a cercare la completamente gatta, scapezzolata, sì, però comunque a buon fine. Sì, poverina, perché ovviamente non è biologicamente. Il volpino c'ha dei denti aguzzi, come fa la gatta a allattare? Sì, ma infatti è stata portata al veterinario per farla curare, però era questo il quadretto veramente commovente da un lato, inusuale, unico, no? Meno raro. Però è successo questo in un agriturismo qui in provincia di Caserta. È una storia bellissima, una gatta eroica mette a repentaglio l'integrità capezzolare pur di dare il suo latte a un povero volpino abbandonato. Bisognerebbe prendere esempio da questo. Irene, cosa ha visto lei? Sì, io abito nella zona sud Milano, Melegnano, e qui ci sono conigli selvatici, sì, lepri, nei giardini delle scuole, nelle aiuole, da tutte le parti. E poi le nutrie, di nutrie ce ne sono tantissime, appena si esce, diciamo, dalla zona più strettamente abitata, le vede che brucano nei prati, e molte spiaccicate per strada. Ah, nutrie spiaccicate? Nutrie tantissime, ma perché sono quelle con cui una volta facevano le famose pellicce di castorino, no? Sì, facevano finta castorino, in realtà era nutria. Ah, è quello lì, e poi sono diventate una specie protetta. Ma anche la penna era il coniglio di casa, gli tiravano il collo, ci facevano, lo mettevano in padella e con la pelliccia le nonne facevano la pelliccia. Che io penso sempre a Marco Valdo, no? Che si, sì, mangiava... tutto, mangiava anche i funghi, rimaneva avvelenato. I funghi dei cittadini, eccetera. Dove sono andati i Marco Valdi in questo periodo di crisi? Lei non lo sa, ma gli Umarell magari fanno la caccia grossa, vanno lì con le trappole, prendono conigli selvatici. E la nutra fa un po' schifo, perché la nutra, diciamo, è un topolone con una coda da topo, è orrenda, fa paura. Sì. È un topone la nutria. Il coniglio selvatico come lo riconosce dal coniglio domestico? Perché salta. Non lo so, ho pensato selvatico perché era tutto nero, cioè di solito è scuro, visto le, sì, lepri, no? Che credo di riconoscere, c'hanno sto codino che dietro è bianco. È più snella la lepre rispetto al coniglio. Sì, forse hanno anche le unghie un po', le orecchie un po' più corte, non lo so. Sì, sì, sì, sì. Ecco, e quello lì invece era tutto nero ed era San Donato a due passi dall'esse lunga, per intenderci, quindi... E le signore cosa fanno? Corrono dietro ai conigli per prendersi? L'atteggiamento. Comunque, diciamo che al parcheggio dell'Esselunga di San Donato ci sono conigli selvatici, lepri e nutrie. Ilia, buongiorno. Buongiorno signor Nicoletti, buongiorno a tutti voi. Volevo raccontarle un episodio vissuto, cioè, della mia famiglia per mio papà. Io sono nata contadina, felicemente nella una vita felice. E mi raccontava che quando lui era giovane con i suoi fratelli avevano una coltivazione di grano turco, dove la notte i criceti andavano a fare le scorte per poi metterli sotto le tane, lo sanno i criceti, sì, come fanno. Non sapendo che che la volpe mangiava il griceto, presumevano che fosse la volpe a mangiare il gran turco. Ah, si erano presa con la povera volpe, che la volpe e in quindi la notte manca. Andavano a fare la caccia alla volpe, mentre la volpe è un animale da proteggere, direi io, perché la volpe mantiene un ecosistema. Vede Roma piena di topi? Se avessero l'accortezza i cittadini di mettere i rifiuti nei cassonetti, le volpi farebbero un'operazione meravigliosa alla città. Comunque perché le volpi stanno mangiando anche i topi a Roma, sono avvistate volpi che mangiano i topi. Perché questo è il loro cibo è questo, per cui non è che lo fanno perché non trovano altro, Nicoletti, perché quello è il loro cibo preferito. E volevo dirle un'altra cosa. Ma quindi la volpe si nutre di topi normalmente? Certo, è il suo nutrimento, il suo preferito nutrimento, perché vive di insetti vivi, non è animali vivi. Non è che quindi invece cercare... tenere un gatto uno meglio che prenda una volpe? Questo è un paradosso, però insomma voglio dire che comunque nella città, che ha tanti problemi adesso di tanti topi, perché noi sappiamo che il mattatoio di Roma ha causato un grave problema quando si scaricavano il sangue nel fiume, pertanto nasce dal mattatoio di San Paolo di Roma. Ah, no, questa non lo sapevo. Noi abbiamo tutti i topi nel Tevere, ci buttano il sangue dentro. No, perché il sangue degli animali, parliamo di dei primi del Novecento ovviamente, quando ancora non c'erano determinate leggi sull'igiene, su tante cose, i rifiuti degli escrementi, tutto quello che nel mattatoio quello ci va ancora comunque. E purtroppo lì si è scatenato l'inferno dei topi. Questa è una cosa, ma la cosa che volevo dirle ancora più importante, che io vivo a Ostia e quindi per venire a casa la notte attraverso la pineta, perché faccio un lavoro che finisco molto tardi la sera lungo la pineta di Ostia, piaccicati sulla strada. Io mi sono resa conto di potervelo, cioè quanto male si fa alla natura, perché il riccio è un altro animale che mantiene un ecosistema. Il riccio è un insettivoro. Poi posso dire una cosa, Ilia, io ho 61 anni, io i ricci spiaccicati li vedo da quando sono bambino. Anche i ricci, ma anche i ricci amano. Bisognerebbe evitarli, perché basta rallentare la frenata. Sono piccolini però, sono piccolini. È un piacere che si fanno, perché il riccio è un insettivoro. E non a me piace, il riccio ce l'avevo da piccolo, ci giocavo con i ricci, li portavo a casa. È una meraviglia, è un animale meraviglioso che dovremmo tutti tenere in giardino. Vive, è come la rondine, la rondine mangia al minimo 5.000 zanzare al giorno. Allora che facciamo? Dobbiamo uccidere le rondini? Perché no, ma riccio, riccio è una crudeltà anche perché è carina, è una pallettina spinosa, a nessuno, uno la mette a casa, pian pianino cammina per casa, sembra un porcellino spinoso. Ma quello, in ogni giardino se ci fosse un riccio non avremmo neanche il problema delle zanzare. Va bene, allora Ilia lancia un avvertimento, quando vedete il ricciolino che attraversa, che è piccolino, lo vedete, a volte sono tutta la famiglia, ecco, fermatevi un attimo che spiaccicarli è brutto. Marcello, buongiorno. Buongiorno a lei. L'avevo chiamato per i lupi. Lupi, lei ha visto lupi poi? No, lupi solo. No, il problema dei lupi che prima si nominava che a Parma stanno raggiungendo la città. In realtà tutti i nostri Appennini, io sono di Modena, il lupo si sta diffondendo molto, ma perché è stato ibridato con la razza del cane cecoslovacco e stanno diventando veramente un flagello, perché non sono più timorosi dell'uomo come lo sono i lupi. Quindi sono cani allupati, non sono più lupi. Cani allupati, il termine è esatto. Sì, sì, no, è quello, il termine tecnico. Ma pericolosissimi. Pericolosissimi, gli allupati in generale rappresentano un rischio comunque, in ogni caso, anche se della razza umana, diciamo, della specie umana. Comunque. Allora, ci hanno spiegato che cinghiali è un problema perché abbiamo importato cinghiali non adatti. Anni fa ci furono gli scoiattolini canadesi che si mangiavano gli scoiattoli rossi con gli altri nostri scoiattoli, e chip e chop si mangiano tutti. I lupi li abbiamo ibridati, ma perché li hanno ibridati coi cani i lupi? Per quale esperimento? Per fare perché, i cani più cattivi? Perché, guardi, il genere umano sarebbe da studiare, e lei mi è maestro in questo, quindi il perché hanno mollato i siluri nel Po che ha ucciso tutte le nostre, i nostri pesci. Il pesce siluro, certo, il famoso pesce. Il pesce siluro è un flagello, però ormai dal momento che c'è. Fra l'altro posso dire, i lupi nella fattispecie andrebbero, termine brutto, ma sarazzati, perché diventeranno veramente un problema non sostenibile. Cioè questi cani allupati andrebbero, diciamo, sterminati, perché è un problema. Perché si riconoscono troppo bene per gli esperti, cioè con quei fucili di precisione da lontano si ucciderebbero tranquillamente. È assolutamente poco politico parlare così. No, no, le cose vanno dette. Se il cane allupato è un pericolo per la natura, il cane lo sbaglio è stato fatto. Non credo che sia possibilità di tenerli in cattività, fare il canile dei cani allupati. Adotta un canino allupato, perché mordono e stacca le mani. Molto chiaro. 800240024. Continuate con le vostre drammatiche ma importanti segnalazioni di animali selvatici in città. Melog, cronache meridiane. Devo stendermi le lenzuola con la biancheria in hotel. E a un certo punto mi vedo tre gabbiani proprio che mi aggredivano con le zampe davanti, col becco. E ho dovuto chiudere subito e portarmi la roba dentro perché sennò mi aggrediva. Mia figlia addirittura è venuta anche con la scopa. Aggredivano la scopa e aggredivano a lei. Rina Casti da un paio di giorni è ostaggio di tre gabbiani che, dopo aver fatto il nido sul tetto della casa della donna in via Giardini a Cagliari, impediscono alla signora di stendere i panni. La donna ha così avvertito i vigili del fuoco che hanno interessato della vicenda anche il corpo forestale. Spesso capita che due gabbiani vadano in giro per cercare del cibo e il più piccolo rimanga a guardia del nido, talvolta nel mirino delle cornacchie. Ma Rina Casti ha paura di uscire in terrazzo. Non riesco a stendere, ho dovuto stendermi la roba dentro nello stenditoio, perché non riesco, perché aggrediscono. La donna abita da decenni in via Giardini. In 40 anni che abito qui non mi è mai capitato. Povera signora, gabbiani stalker che non le permettono nemmeno di uscire di casa, con il becco wuwu che gli stanno lì davanti come lei stende i panni, lordano con la loro zozzura organica i panni immacolati della signora. Il piccolo gabbiano fa da palo, osserva appena le esce, subito i grandi intervengono. Sono problemi. Francesca, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. No, noi abitiamo nella bassa bergamasca, al confine con la cremasca, e abbiamo l'afflizione delle nutrie, queste specie di castoro con coda da topo che stanno facendo dei danni anche. Ma lei le vede le nutrie? Cosa fanno? Come si comportano? Sì, sì, io le ho proprio sotto casa. Ma adesso sono educate? Sono animali educati? Salutano oppure chiedono il permesso o vanno dovunque? No, vanno dovunque, uno, due, sono anche pericolosi perché poi diventano anche aggressivi se si avvicinano. E voi come fate? Come le allontanate le nutrie? Ci siamo arrangiati un po' da soli. E come? Quali sistemi usate antinutri? Purtroppo delle trappole che... Dove si vede come fare le trappole? Su YouTube ci sono dei tutorial, come si fa la trappola sì, per nutri? Sì, quello poi comunque... Allora, in teoria dovrebbe intervenire la provincia. Sì, ma la provincia, lasciamo, vorrei sapere voi come vi ingegnate, come si costruisce una trappola per nutri, perché mi interessa. Non lo sa? Sì, no, lo so, perché ne ha fatta una anche mio marito. E come si fa? Si è ingegnato lui. E come si fa? Si va al brico, si fa un po' di spesa di lamiera, di... Ah, quella a molla, diciamo, una tagliola, La imprigiona e poi comunque... Cioè, e come esca, esca che ci mettete dentro? Il mais o la mela. Ah, con una mela, quando entra la nutria, come una trappola per topi, si chiude e rimane lì? Sì. E sì, ma poi sì. Come la eliminate, diciamo, la nutria, una volta che l'avete vista lì? Bisogna ucciderla perché è grossissima. Cioè, è grossa, non è che faccio ammazzare una nutria, come fa? Lo so, ci pensa mio marito, io di solito non guardo. Gli spara in testa? No, no, niente pistole, all'arma bianca. Armi. No, bisogna capire. L'esecuzione della nutria è necessaria, purtroppo crudele, ma la nutria una volta messa nella trappola va eliminata e il signore si deve ingegnare con una piccola ghigliottina per nutri. So che adesso qualcuno rabbrividirà, ma in qualche maniera la devono eliminare una volta che l'hanno presa. È un animale nocivo. Quando uno prende un topo, che ci fa? E mica se lo tiene in salotto. La nutria è un topone. Lorenzo. Ah, salve, buongiorno. Salve. Io per un po' di tempo ho fatto disinfestazioni, quello che voglio dire è che tutti questi infestanti provengono dallo scambio di merci e di persone. Cioè? Ma a parte la globalizzazione, da quando gli uomini si sono spostati hanno portato con sé... Ah, cioè i migranti portano dietro lupi, nutrie, castori? Sì, a oggi per dire molto spesso le migrazioni hanno presentato una recrudescenza della cimice dei letti. Ah, gli animali piccoli lei dice, ah ecco, sì sì. Piccoli e grandi, anche i ratti, il ratto delle chiaviche è il risultato di importazioni dall'Oriente, perché noi in realtà avevamo Topolino, il ratto nero. Hai capito? Sarebbe poi, il topo di campagna e il topo di città, un'antica storia. Esatto, e quindi e poi ovviamente veicolano tutta una serie di patogeni, di malattie. Quindi lei parla diciamo degli animali meno visibili, quindi diciamo scarafaggi, piattole, animali. Sì, guardi, io ho fatto anche interventi dove all'interno di case dove intere famiglie, bambini inclusi, erano massacrati dalle pulci, perché magari avevano il solito gatto o cane e al di là che erano trattati comunque erano massacrati dai pulci. Quello però perché uno non controlla l'animale domestico, il cane porta le pulci, se uno non controlla sì, il cane. So, anche le zecche sa per quello che non è manco esatto, un bel animale. Esatto, però il ratto o l'animale selvatico in sé porta degli infestanti come la pulce. Frequentando gli stessi ambienti, cani, gatti e animali selvatici si scambiano questi parassiti e poi tu ti ritrovi con delle malattie come... Lei ci sta dando un quadro che è ancora più allarmante, diciamo, i parassiti degli animali selvatici. Grazie Luigi. Luigi, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Ci spieghi il suo punto di vista. No, il mio punto di vista è semplice. Il problema è sorto dopo che i benpensanti hanno lasciato andare animali che non facevano parte della fauna autoctona italiana. Quindi questi hanno avuto un potere di adattamento incredibile e adesso ci ritroviamo con delle problematiche non indifferenti. Lei è una guardia venatoria, quindi ne avrà viste di cose. Sì, noi siamo abilitati all'abbattimento delle specie invasive, perché le specie invasive tramite l'Istituto Superiore per la Fauna Selvatica ha deciso addirittura l'eradicazione di determinate specie che non fanno parte. Mi faccia un esempio di specie invasiva che va abbattuta per capire. La nutria è stata fatta addirittura una legge che la equipara ai topi e ai ratti, quindi chiunque la può abbattere senza nessun problema. No, questo lo dico perché la signora prima potrà sembrare un momento crudele, si devono attrezzare con delle trappole. Il problema è la nutria, è quella che dà i problemi più grossi, tant'è vero che noi abbiamo un cimitero dove è letteralmente invaso dalle nutrie. No, rimangiano i morti, vanno a mangiarsi morti. No, mangiano i fiori. Ah, i fiori. I fiori che trovano dentro, quindi creano dei danni non incredibili. In questo senso è una nutria zombie, può essere anche. No. Senta una cosa, mi spiega come si abbatte la nutria? Gli si spara quando uno... La nutria normalmente o la batte tramite una fucilata o se no se la cattura con le gabbie Larsen la deve sparare poi, perché in un primo tempo andava messa in una dolce morte, no? Andava messa in un altro contenitore e cloroformizzata. Ah, sì, ho capito. No. Sì. No. Diciamo no, con l'iniezione letale, invece la fucilazione alla schiena è la maniera migliore. Abbiamo capito molto, continueremo a calcare questo pericoloso quanto allarmante problema. Alla prossima.